La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:31 primi 7 secondi, qui in diretta agli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto come sempre, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per temi di trasmissione, domande eccetera eccetera. Lo sapete, molte trasmissioni vengono dalle vostre richieste. La verità è che la notizia del giorno sarebbe, secondo il mio modestissimo avviso, la ennesima sentenza della Corte di Cassazione che cambia idea rispetto all'anno scorso sulla materia se le norme sul licenziamento modificate dalla legge Fornero prima e poi dal Jobs Act ancora in termini più flessibili del governo Renzi si applicano o meno, oltre che ai dipendenti privati, anche ai dipendenti pubblici. L'anno scorso la Corte di Cassazione aveva detto si applicano risolutamente anche ai dipendenti pubblici. Sapete che il governo ha sempre detto no, non si applicano. E oggi la sentenza di ieri della Corte di Cassazione cambia idea e dice no, assolutamente no, le norme sui licenziamenti per i dipendenti pubblici, ricordiamo che sono 3.200.000, restano quelli del vecchio articolo 18, quindi non si modificano né con la legge Fornero che aveva introdotto aveva abolito la reintegra giudiziale tranne che per i licenziamenti disciplinari, e tantomeno la modifica del Jobs Act che estende ulteriormente l'area di abrogazione della reintegra giudiziale e la limita solo ai licenziamenti che vengano di fronte al giudice provati come discriminatori. Sarebbe questo l'articolo, perché è inevitabile che vi chiederei: siete d'accordo sul fatto che bisogna mantenere separata la disciplina del pubblico impiego rispetto a quella privata? Io sono tra i pochi che hanno sempre detto, si sono sempre detti favorevoli all'omologazione. Il governo ha sempre detto che avrebbe chiarito nei decreti attuativi del Jobs Act ciò che per lui è sempre stato chiaro, cioè che non si applicava al pubblico impiego, quindi si può dire che la Cassazione dà ragione al governo. Nella realtà la questione poi è complessa, ma questo ve lo vedremo poi magari in una trasmissione ad hoc, perché ci sono molte sentenze della Corte Costituzionale a cui si rifà la Corte di Cassazione, nella quale si conferma che la natura del pubblico impiego resta particolare rispetto al lavoro privato, di cui ha anche l'obbligo, mille volte l'uso però, per l'assunzione solo per concorso. E in realtà, diciamo, la giurisprudenza consolidata, pur mantenendo questa distinzione, diceva che su alcuni istituti del rapporto di lavoro, dopo la privatizzazione del contratto di lavoro pubblico, si chiama così, no? All'inizio degli anni 2000, gli anni 90, anzi, alcune caratteristiche possono essere uguali, ma altre no, a cominciare dal licenziamento, a meno che il governo non disponesse con esplicite giustificazioni il contrario, cosa che il governo non ha fatto. Allora, bisognerà vedere meglio questa sentenza. Resta il problema che abbiamo un mondo del lavoro spaccato in due, e a me questa non sembra una buona cosa. Però in realtà la trasmissione non è su questo, perché ieri noi siamo rimasti a metà su un tema sul quale vi chiederei di intervenire oggi, perché ieri non abbiamo avuto tempo né per le vostre telefonate né per il secondo ospite. Ieri abbiamo parlato, è stato con noi il presidente dell'Agenzia per la Prevenzione, un medico che insegna alla Sapienza di Roma, Giacomo Mangiaracina, che ci ha spiegato la sua lettera aperta al Presidente del Consiglio per dire: devi assolutamente aumentare di moltissimo il prezzo e le tasse sulle sigarette, fino a 18 euro a pacchetto. E ci ha spiegato perché la ragione di questa richiesta è che in realtà lo Stato, che fa molti soldi sui tabacchi, io l'ho ricordato, arriva fino a 14 miliardi di prelievo nel 2017, su una stima del costo della diagnosi, profilassi e poi cura delle patologie da fumo dirette e indirette, che è intorno agli 8 miliardi, gli altri 5 se li mette in tasca. E nella realtà lo Stato da una parte fa il virtuoso, ma dall'altra fa il patrigno, perché assume sempre misure che sono tali da guadagnarci più soldi. Ricordate tutti che abbiamo avuto l'aumento di 20 centesimi in media a pacchetto, cambiava per le diverse marche, lo scorso aprile. Si parla di un altro aumento di 20 centesimi a ottobre. Lo Stato incassa un mucchio di soldi, e analogamente del tutto ai giochi legali dello Stato, poi ci dice che si preoccupa per noi, ma in realtà queste sono macchinette di entrate per miliardi per lo Stato. Resta il fatto che però è fondata anche l'obiezione dei medici, che dicono: sì, ma quegli soldi lo Stato se li piglia per sé, per le sue spese correnti, mica li destina davvero direttamente ad affrontare le patologie. E questa è un'altra distorsione dello Stato. Ma resta il fatto, cari fumatori o non fumatori, perché su questo è una materia, siccome tutti contribuite comunque, chi è chiaro, chi compra perché fuma paga i tassi tasca sua. Poi in generale ci sono i contribuenti che pagano anche di tasca propria per il Servizio Sanitario Nazionale, tutti sono chiamati a dare un'opinione. Credete davvero che sia una norma efficace quella di una super stangata sul pacchetto, finalizzata come tassa di scopo con dandogliela direttamente poi al finanziamento delle malattie cardiovascolari, delle cure e della ricerca per le malattie, contro le malattie cardiovascolari e oncologiche? Questo è il dilemma. Ieri ci hanno scritto anche molti tabaccai, vorrei sapere anche come la pensate voi, perché in tutti i paesi in cui la stangata è stata fatta, non in queste proporzioni, ma un aumento molto significativo del pacchetto a fini dichiarati antifumo, come la Gran Bretagna, l'Irlanda e così via, il fenomeno ha portato a un'esplosione, a una vera e propria esplosione che in quei paesi prima era sconosciuta del mercato illegale, cioè del contrabbando, in parole povere, perché come sempre quando si va poi a prezzi da proibizionismo, questo è l'effetto immediato. Nel nostro paese c'è già una tradizione inveterata dagli anni del secondo dopoguerra in poi diminuita di contrabbando. La mia opinione è che oltre all'ipocrisia dello Stato in questo si aggiungerebbe un fenomeno di illegalità molto esteso, credo io molto esteso. Infine ricordate che ne abbiamo ricordato anche ieri, è entrata in vigore recentemente in Italia la direttiva 40 europea, quella che disciplina l'obbligo sui pacchetti 65% della superficie anterretro, non più le vecchie scritte il fumo provoca il cancro e così via, ma immagini durissime, violente, volte a impedire o a scoraggiare meglio il fumo. È stato impedito la vendita dei pacchetti da 10, l'idea è così impediamo a chi è più giovane ha meno soldi di comprarli, no, semplicemente spingiamo tutti a comprarne 20 così lo Stato incassa di più. Il fine non dichiarato in quel caso è rendere meno possibile alle aziende produttrici la valorizzazione del brand, perché non c'è più la superficie per farlo sui pacchetti, e quindi creando un danno diretto naturalmente anche a chi investe di più, più tutela la sicurezza e così via. Tra le altre norme è vietato anche d'ora in poi pubblicare gli eccipienti additivi, non sai mai che piacessero a chi fuma, con l'idea che altrimenti si svia il consumo consapevole, perché leggendo quello il consumatore, cioè il fumatore, può credere di avere più o meno danni. Allora, tutto questo paternalismo, per me che fumo solo sigari toscani, ma sono consapevole del rischio che mi assumo, dichiaro che sono pronto a pagare le esternalità negative, non per la spesa corrente dello Stato, però se serve davvero poi a finanziare la sanità. Detto tutto questo, la domanda è: serve la super stangata? Allora iniziamo col sentire l'ospite che ieri, visto che Mangia la Cina ha parlato molto a lungo, non è potuto intervenire, ed è il direttore delle relazioni esterne della British American Tobacco, Gianluca Ansalone. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi mentre aspettiamo le vostre telefonate. Allora Ansalone, qual è la vostra replica alla lettera a Renzi del presidente dell'Agenzia per la Prevenzione? Buon pomeriggio a voi innanzitutto. Ma guardi, lei Giannino ha già detto moltissimo sia nella trasmissione di ieri che in questa sua introduzione. Bisogna distinguere le nobili intenzioni dagli effetti. Quali sono gli effetti o quali sarebbero gli effetti di questa super tassazione sulle sigarette? Il caso che veniva citato ieri è quello che ha fatto un minimo di scalpore sulla stampa, della Nuova Zelanda, che sta discutendo questa possibile misura dei 18 euro a pacchetto. È ancora lì da arrivare e soprattutto non abbiamo né numeri né risultati su cui ragionare. Però lasciamo un po' i luoghi lontani da noi, i luoghi un po' esotici, veniamo vicino a casa nostra. Lei ha citato alcuni esempi di misure del genere che riguardano paesi nostri vicini, qui in Europa, Regno Unito, Irlanda, io aggiungerei anche la Francia, dove c'è stato nell'ultimo anno un aumento drammatico dell'imposizione fiscale sulle sigarette. Quali sono i risultati? Due in particolare. Il primo riguarda la capacità dello Stato di fare cassa, lo ha citato lei più volte. Un articolo di Leseco di ieri faceva il punto con un titolo a mio avviso emblematico, cioè Parigi, campione del commercio illegale di tabacco, questo è il titolo. Giornalista nel merito poi parla di una riduzione delle entrate da accise sui tabacchi per lo Stato francese dai 18 ai 14 miliardi in un anno tra il 2014 e il 2015 e un'incidenza del contrabbando che è arrivata praticamente a contare una sigaretta ogni 4, quindi quasi il 27%, siamo in Francia, non siamo lontanissimi da noi. Nel Regno Unito è successo sostanzialmente la stessa cosa negli ultimi anni, un pacchetto di sigarette che ha un prezzo medio di mercato attorno ai 10 pounds, quindi 13 euro grosso modo, a cui si associa un'incidenza del contrabbando del 20%. Potrei continuare, ce ne sono molti esempi, uno che sono sicuro insomma ha colpito anche lei e che è stato riportato dalla stampa qualche mese fa qui in Italia. Il controller dello Stato di New York, Thomas Di Napoli, cioè la Corte dei Conti dello Stato di New York, ha verificato che negli ultimi 10 anni lo Stato ha perso 400 milioni di dollari di tasse sulle sigarette, che sono cresciute del 200%, e soprattutto oggi a New York una sigaretta su due è venduta di contrabbando nelle strade. Allora, gli effetti vanno tenuti in assoluta considerazione, perché è su quelli che bisogna ragionare. La capacità dello Stato di incassare dalla vendita dei tabacchi, che come lei ricordava in Italia è di 14 miliardi in gettito complessivo, accisa più IVA, e la capacità di tenere a bada un fenomeno pervasivo che ha delle connessioni enormi con criminalità organizzate, addirittura mi permetto di dire, e non lo dico io, lo dico in rapporti ufficiali, con le organizzazioni terroristiche. Perché ci si è chiesto molto spesso, dopo i drammatici attentati a Parigi di Charlie Hebdo, per quale motivo i fratelli Kouachi fossero stati persi, diciamo così, dalla vigilanza dell'intelligence francese. La risposta sta nel fatto che, essendo trafficanti e contrabbandieri di sigarette, ed essendo in Francia il contrabbando considerato un reato minore, la loro sorveglianza era passata da intelligence a gendarmeria. E con quei soldi e con quei proventi, quella cellula di fuoco comprò gli armamenti, affittò le automobili, comprò i documenti falsi e così via. Un'attenzione quindi massima su questo fenomeno va data. Allora, iniziamo a sentire, io poi ho altre due domande da fare al nostro ospite, iniziamo a sentire intanto qualcuno dei nostri ascoltatori. Io intanto ringrazio chi sta mandando tweet, lo sapevo, sulla sentenza della Corte di Cassazione del pubblico impiego, rispetto che rimane più tutelato, molto più tutelato, vecchio articolo 18 per il pubblico impiego, dice la Cassazione che cambia idea rispetto ai dipendenti privati. Alcuni di voi fanno battute sul fatto che la Corte di Cassazione dà la possibilità al governo, che peraltro era già su questa linea, di recuperare qualche voto sotto amministrative, però insomma queste sono le conseguenze intenzionali, come dire, se ci sono, io mi limito a dire che parecchi di voi hanno mandato sms di questo tipo. Sentiamo intanto come la pensa sul tema di cui stiamo parlando oggi e ieri, cominciando con Roberto che ci chiama dalla Spezia. Prego Roberto. Buonasera. Giannino, io credo di poter parlare con cognizione di causa, in quanto sono un forte fumatore da circa 50 anni. Sono consapevole dei danni che il fumo provoca. Mi sono rivolto al centro antifumo dell'Istituto Tumori di Milano per risolvere il problema, ho avuto qualche risultato positivo, però poi alla fine la componente nervosa ha prevalso, ho ricominciato. Faccio parte del progetto Biomild, sempre gestito dall'Istituto Tumori di Milano, che non smetterò mai di ringraziare. Siamo sottoposti a test periodici molto frequenti, una volta all'anno, proprio per la caratterizzazione. Età non giovane e forte fumatore. Quindi si è offerto volontario, io di questo la ringrazio, sì. Io credo che fare i volontari, ho esperienze di questo tipo anche per le sperimentazioni pre-ok del protocollo di principi attivi di farmaci, io credo che sia una delle cose più significative che si possono fare e lo possono fare tutti coloro che vogliono dare una mano agli altri. Io la ringrazio molto di questa cosa, sono molto sensibile a questo tipo di, non lo fa solo per lei, per la condizione in cui è, lo fa perché vuole rendere attraverso se stesso un servizio all'intera comunità. Secondo me queste cose sono molto utili. Mi scusi se l'ho interrotta. Certo, prego. E detto questo, quindi questa premessa doverosa, io sono totalmente d'accordo con il suo ospite di ieri, professore della Sapienza, per gli aumenti. Circa l'aumento del prezzo delle sigarette significativo. Delle due l'una, nel momento in cui il prezzo delle sigarette dovesse essere raddoppiato o triplicato, ecco, per quanto mi riguarda, ahimè, vista l'età e la disponibilità economica, probabilmente la cosa non cambierebbe di molto, però ci sarebbe un forte effetto deterrente innanzitutto nei confronti dei giovani, perché non credo che i giovani abbiano la possibilità di spendere 15-18 euro per comprarsi un pacchetto di sigarette, in particolare per i giovani delle nuove generazioni. E il problema citato dal suo ospite, che è intervenuto precedentemente, sì. Esatto, beh, è chiaro che non mi poteva aspettare nulla di diverso. È chiaro che è un intervento pro domo sua, anche se mi sembra un pochino azzardato un collegamento tra il contrabbando di sigarette e però e guardi Daesh. Che c'è stato in tutti i paesi, cioè, se uno guarda il fenomeno si è verificato in tutti i paesi che hanno adottato stangate sul prezzo del pacchetto, in tutti, compresi i paesi in cui era storicamente non molto rilevante il fenomeno del contrabbando, ecco, perché in Italia lo è stato, negli Stati Uniti lo è sempre stato e nei paesi come l'Irlanda e la Gran Bretagna non lo è, e chi è andato in Gran Bretagna recentemente sa che dal tabaccai la cosa non è solo nelle strade, cioè per essere chiari, quindi quello è un altro fatto di cui tenere conto. La mia obiezione a questo, vede, è che l'aumento del pacchetto l'ho già fatta ieri a Mangia la Cina, cioè l'aumento molto sensibile del pacchetto, a parte il fatto che è regressivo, come ovvio, nel senso che continuerà a fumare chi ha più soldi, ma e pratica, allora perché non il proibizionismo? Perché Mangia la Cina mi ha detto no, il proibizionismo è sbagliato in senso ideologico, ha effetti negativi, ma questo però li ha comunque regressivi nel senso del reddito. Però io rispetto il suo punto di vista, soprattutto per quello che ci ha detto intervenendo. Dopo un minuto di informazione sulle strade abbiamo Agostino, Antonio e Giancarlo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare anche oggi di questa proposta che l'Agenzia per la Prevenzione ha fatto al governo Renzi, dicendo stangate, insomma, aumentate molto considerevolmente il prezzo del pacchetto di sigarette, perché tutti i soldi che lo Stato ci fa sul tabacco, tanti, in realtà ve li tenete per voi e non li date a chi ne ha bisogno per approfondire la lotta dal punto di vista medico-scientifica agli effetti del fumo. E molti di voi mandano sms con argomenti diversi, ce ne sono per esempio alcuni che dicono forse si ottiene di più con una stretta ulteriore con i divieti di fumo, i posti con i divieti di fumo. C'è stata anche questa, perché nella norma che ha recepito la recente direttiva c'è anche il divieto di fumo nelle automobili e così via. Comunque in questo abbiamo fatto dei passi avanti nel nostro paese. C'è chi segnala da molte parti d'Italia in cui il contrabbando di sigarette avviene per strada senza nessun intervento pubblico, questo purtroppo lo sappiamo da sempre. Le stime sono in considerevole calo rispetto però al margine che il mercato di contrabbando aveva negli anni 70-80, queste sono le stime ufficiali, secondo me aumenterebbero con la stangata. Mario da Pescara e molti altri come lui dicono 18 sono troppi, ma almeno 10 euro a pacchetto più o meno potremmo essere d'accordo. Molti mi chiedono se io fumo, lo ripeto, io non fumo sigarette, non mi è mai piaciuto, fumo sigari toscani o per chi conosce il tipo di sigari, quindi tabacco Kentucky, l'ambasciatore italico che è un concorrente più piccolo dell'ex manifattura dello Stato, ma insomma fumo solo sigari, no, sigarette non le fumo, però mi sembra un tema generale questo dell'aumento, una stangata di queste proporzioni. Allora continuiamo con le telefonate, cominciamo con Agostino che ci chiama da Genova, prego Agostino. Buonasera. Guardi, io ho un brutto ricordo perché mio padre era deceduto tanti anni fa a causa del fumo. Oggi quello che si vede è che già i ragazzi di 13 anni cominciano a fumare la sigaretta. Io credo che il fenomeno sia soprattutto sociale. Non credo che aumentare il costo delle sigarette possa in qualche modo disincentivarlo, perché chi fuma continuerebbe a trovare il modo. E purtroppo è difficile anche capirne le cause, ma se si sta diffondendo tra i giovani in così misura larga, evidentemente bisognerebbe indagare su quali sono le motivazioni che portano a quello. Anche se a dire la verità le statistiche dicono che rispetto a decenni alle nostre spalle i giovani fumano meno, poi ci sono percentuali diverse di genere tra i ragazzi e le ragazze per fasce d'età, però rispetto agli anni in cui, almeno chi ha la mia età sa, ci ricorda benissimo i cinema in cui si fumava e c'erano delle coltre di fumo in tutta la sala rispetto al telone su cui si proiettava il film, ecco, rispetto a quei tempi i giovani fumavano di più. Ma guardi, io vedo quello che mi racconta mio figlio, che nota che soprattutto i molti più giovani cominciano a fumare. E io farei, se fossi, diciamo, se potessi, farei un'azione a quel livello lì, per cercare di frenare. Quindi informazioni sulle conseguenze, soprattutto nella scuola e così via. Capisco bene? Sì. E piuttosto che aumenti il prezzo. Grazie Agostino, sentiamo Antonio da Pavia. Antonio, prego. Buonasera, signor Giannino. Senta, lei ha esordito dicendo che lei fuma toscani, sì, e che è consapevole dei rischi. Sì, ohimè sì. Volevo contestare questa sua consapevolezza, perché chi è dipendente da una sostanza non può essere consapevole dei rischi e farlo in piena libertà. Ha una dipendenza fisica e una dipendenza mentale. Quindi tutto quello che può riuscire a spezzare questa dipendenza in un modo o nell'altro è benvenuto. Quindi quando si dice smetto quando voglio, riferito a tante sostanze, è una barzelletta. E non si può applicare alle sigarette quello che si potrebbe applicare al prezzo della benzina. Però mi scusi se faccio questa obiezione, quando io dico che sono consapevole dico che seguo costantemente le ricerche, no? Epidemiologiche e così via, in relazione per esempio al tumore del cavo orale o a un tratto esofageo, che sono le cose, oltre a quello anche la lingua, che sono le patologie più correlate al sigaro rispetto a invece di tipo oncologico polmonare per chi consuma sigarette e così via. Questa consapevolezza io ce l'ho, e però ritengo anche che sia una mia facoltà quella di poter scegliere, no? Mentre io diffido un po' dello Stato che inizia a dire che cosa fa male a tutti. Qui entriamo in una materia complicata, cioè la tassazione delle bevande con le bollicine o dei grassi di un certo tipo rispetto ad altri nei cibi e così via. Insomma, a me lo Stato che veramente pretende di sapere meglio di me che cosa mi voglio esporre un po' mi fa paura, cioè non fa parte del mio corredo culturale totalmente minoritario di liberista individualista, però capisco anche quello che dice lei, e sono convinto che siano in maggioranza quelli che la pensano come lei. Da questo punto di vista, quindi, lei dice l'aumento del pacchetto serve. L'aumento del pacchetto potrebbe servire, non mi sembra più moralistico aumentare il pacchetto di quanto sia moralistico dire che non bisogna aumentarlo. No, certo. Se è efficace. Se è efficace. Perché? Quindi lei dice la cosa migliore sarebbe sperimentare e vedere gli effetti a quel punto. Sperimentare, ecco. E contesto ancora una volta il fatto che a lei servono ancora più informazioni di quante ce ne siano per capire che il fumo fa male. Non penso che ulteriori informazioni la convincano a smettere di fumare. Ce ne ha bisogno di informazioni. Sì, sono completamente sì, d'accordo, però in questo appunto c'è un limite di libertà, altrimenti lei diventa il mio giudice platonico, e io dai giudici platonici sono in minoranza, però non penso che lo Stato debba vietare tutto, ecco, quello che si riserva di dire che fa male. Fa male, sì, ne sono consapevole. Giancarlo da Imola, riesce ad essere brevissimo? Sì, buonasera. Sono non fumatore, 65enne. Di fumatrice purtroppo, che ha tentato negli ultimi 40 anni di smettere e al massimo 6 mesi poi riprendeva. E che pensa della stangata? Penso che è folle, perché non è il prezzo, non c'è dubbio. Credo invece che proprio l'informazione, specialmente quella visiva, fare vedere di più. Quindi lei è favorevole a queste nuove norme sui pacchetti. Sapevo che, come vedete, il ventaglio d'opinioni è molto vasto, ma come immaginavo molti sono i favorevoli. Intanto grazie a Gianluca Ansalone, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:15 con Attenti a noi due.